Il potere non mi cambierà. Sono state queste le prime parole che hanno fatto il giro del mondo di José Luis Zapatero, il nuovo premier spagnolo eletto domenica scorsa con un robusto numero di voti ai danni dell'ex premier del PP, del Partito Popolare, Aznar. Zapatero si può dire che è quasi uno sconosciuto in campo internazionale e nella stessa Spagna ben pochi puntavano delle carte sulla sua elezione, ma si sa, quando l'opinione pubblica, soprattutto come quella spagnola, l'88% degli spagnoli erano contrari alla guerra, si sono sentiti traditi due volte, primo per la missione di guerra in Iraq a fianco degli Stati Uniti e secondo per quella montagna di colossali bugie che sono venute a galla subito dopo le terribili stragi dell'11 marzo alle stazioni di Madrid, coinvolgendo l'ETA. Insomma, Zapatero è entrato alla Moncloa, è il nuovo premier spagnolo. No alle guerre unilaterali, ha promesso Zapatero, e ha annunciato il ritiro dei 1.300 soldati spagnoli oggi di stanza in Iraq. Ma soprattutto nella politica estera, Zapatero ha subito cercato di dare un'impronta a quello che sarà il suo governo. La Spagna è un ponte naturale con l'America Latina e con il continente intende intavolare rapporti da pari a pari, e anche naturalmente con il Nord Africa, che sono da sempre paesi sotto l'ottica commerciale, sotto l'influenza culturale della Spagna, come il Marocco, come l'Algeria, eccetera. Insomma, un governo monocolore, ha detto Zapatero, efficiente, affidabile, aperto al dialogo e tollerante. Noi, naturalmente, come opinione pubblica internazionale, staremo a vedere. In ultimo, per chiudere questo collegamento con la radio, non possiamo non ricordare che è un anno e un giorno che è morta Raquel Carey, un'eroina della lotta palestinese, è stata definita proprio oggi dal quotidiano di Nairobi Daily Nation. Raquel Carey, 23 anni, militante dell'International Solidarity Movement, ISM, fu schiacciata a morte da un bulldozer dell'esercito italiano a Rafah, nella striscia di Gaza, il 16 marzo del 2003. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.